La professione di fede islamica. La professione di fede islamica è il primo pilastro dell'Islam. In lingua araba, il nome del primo pilastro dell'Islam è Shahada e letteralmente la parola significa testimonianza. Infatti, la professione di fede islamica consiste nel rendere testimonianza che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è l'apostolo di Allah. La formula della professione di fede è Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Attesto che non c'è divinità tranne Allah, attesto che certamente Muhammad è l'apostolo di Allah. La professione di fede è il punto di arrivo della presa di coscienza che si esprime nella dichiarazione testimoniale. È altresì il punto di partenza di una linea di condotta coerente alla testimonianza resa verbalmente. La coerenza comportamentale alla dichiarazione testimoniale si esprime nella pratica scrupolosa dell'Islam. La coerenza alla dichiarazione testimoniale che non c'è divinità tranne Allah si esprime nella pratica in forma esclusiva del sublime Corano. Infatti, non c'è spazio nella vita del musulmano per altre fonti di regole di condotta. L'unica fonte di norme di comportamento accettata è il libro di Allah, rifulga lo splendore della sua luce. La coerenza alla dichiarazione testimoniale che Muhammad certamente è l'apostolo di Allah si esprime nella pratica in forma esclusiva degli insegnamenti orali del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e della sua sunna. Infatti non c'è spazio nella vita del musulmano per altre fonti di regole di condotta. L'unico maestro di vita di cui viene accettato l'insegnamento e preso a modello l'esempio è il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Il comportamento da tenere in un caso non espressamente regolato o previsto dal sublime Corano e dalla nobile Sunna è regolato con una norma ricavata dall'interpretazione del Corano e della Sunna secondo i criteri interpretativi indicati dal Corano e dal profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Dice Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, nel sublime Corano: obbedite ad Allah, obbedite all'Apostolo e a coloro che tra voi hanno autorità islamica. Quando avete tra voi delle divergenze, se credete ad Allah e all'ultimo giorno, risolvetele facendo ricorso al Corano e alla Sunna. Questo è il bene e il miglior criterio di interpretazione.